Parliamo del tema della dipendenza energetica di diversi paesi europei, ma in particolare dell'Italia, dal gas russo e nei tentativi di emancipazione anche del nostro paese. Il ministro degli esteri Di Maio ha parlato di un dimezzamento delle forniture dalla Russia entro 2 mesi, ma la situazione potrebbe non essere così semplice come appare. Ne parliamo con Francesco Sassi, ricercatore di RIE dell'Università di Pisa. Buongiorno. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Per prima cosa, appunto, ti chiedo se effettivamente l'Italia in poco tempo potrebbe emanciparsi dal gas russo. No, il gas russo è la fonte principale, una delle fonti principali di approvvigionamento energetico nel nostro paese. Il mercato del gas naturale non è, come si potrebbe pensare, così liquido e globalizzato come sovente i nostri politici tendono a rappresentarlo, e quindi è molto difficile in questo momento trovare volumi tali da sostituire la metà delle importazioni dalla Russia nel nostro paese. Parliamo di volumi davvero molto elevati. Dalla Russia proviene all'incirca il 40% del gas che importiamo, questo nei dati del 2021, con i volumi che già erano di molto ribassati rispetto agli anni precedenti, in cui comunque la Russia offriva ancora maggiori volumi su un mercato, diciamo, a pronte, quindi in sostanza rispondendo alle esigenze immediate del mercato. I prezzi ora sono, come ben sappiamo, come sanno anche gli ascoltatori, schizzati alle stelle per i consumatori, ma questo perché vi è un grandissimo squilibrio nel mercato, proprio perché a fronte di una domanda crescente dettata sia dal recupero economico successivo alla pandemia, ma anche perché i consumi interni industriali appunto stanno aumentando, ma anche quelli residenziali, e in questo contesto, che è un contesto che accomuna più o meno tutti i paesi europei, la disponibilità di gas non soltanto per l'Italia ma per tutti appunto i nostri partner europei è davvero risicata, e i prezzi sono la risposta strutturale a una mancanza di offerta nel mercato. È quindi molto difficile che la metà delle importazioni dalla Russia possono essere sostituite non soltanto in 2 mesi, ma entro lo stesso anno, come invece l'Unione Europea vorrebbe portare avanti con il proprio programma Repower. Ieri il presidente russo Vladimir Putin ha detto che accetterà pagamenti per le forniture del gas solamente in rubli, quindi nella valuta russa. Questo potrebbe creare dei problemi a noi? Questa è stato, diciamo, un fulmine a ciel sereno, in un quello che sì, non è assolutamente sereno ormai da mesi, ma è arrivata, diciamo, a sconquassare gli animi sui mercati più liquidi in Europa. Si tenga ben presente che dopo queste affermazioni, nel giro di un'ora e mezza sul mercato liquido del TTF ad Amsterdam, il prezzo del gas è aumentato del 28% è arrivato, con punte fino al 28%, per poi calare e chiudere a un prezzo minore. Questo parlavo dei futures al prossimo mese, quindi i prezzi del gas al prossimo mese. Detto questo, il TTF è un mercato molto liquido e magari non si parla di scambi fisici di gas naturale, ma il punto è che l'insicurezza chiaramente filtra anche da queste affermazioni e da quello che accade immediatamente sui mercati, ovvero vi è un'affermazione da parte del presidente russo, e non è la prima volta che negli ultimi mesi succede, e il mercato del gas naturale reagisce così improvvisamente. La questione dei rubli è in realtà una questione abbastanza spinosa, perché nella stesura dei contratti tra le compagnie europee e Gazprom, e anche tra la stessa Eni e Gazprom, per le forniture nel lungo periodo si determinano volumi, prezzo e una valuta attraverso cui questo prezzo e questi volumi vengono pagati. Se una delle due parti a livello contrattuale unilateralmente decide di cambiare queste condizioni nel contratto, in teoria il contratto potrebbe non essere più valido. Ora, la Russia non ha alcun interesse a far crollare e cadere questi contratti in questo momento, proprio per i guadagni, immensi guadagni che Gazprom sta incamerando in questi mesi. Basta pensare che il gennaio del 2022 Gazprom ha all'incirca triplicato i guadagni rispetto al gennaio del 2021. E la questione dei rubli diventerà, o dei pagamenti del gas naturale, diventerà una questione tecnica, legale anche, che però, se portata avanti in una maniera tendenziosa e politicizzata nelle prossime settimane potrebbe creare dei problemi sulla stessa validità dei contratti di Gazprom, in un momento in cui però l'Unione Europea sta presentando un nuovo programma che dovrebbe guardare al futuro, al prossimo futuro fino al prossimo ottobre, e assicurare che gli stoccaggi europei vengano riforniti da gas naturale, e questi volumi che dovrebbero venire dalla Russia, che continuano a venire perché, ricordiamolo sempre, non si sono mai interrotti nonostante la guerra, anzi dopo l'inizio della guerra e dell'invasione in Ucraina questi volumi sono incrementati invece di diminuire. Questi volumi di gas russo sono necessari assolutamente per raggiungere questo 80% degli stoccaggi, che altrimenti rimarrebbe veramente molto molto complicato rifornire, e arriveremmo senza il gas russo al prossimo inverno in grosso deficit rispetto i volumi che poi andranno a essere consumati durante l'inverno. E questo pone un interrogativo ulteriore, perché noi in questo momento non possiamo controllare quelle che saranno le condizioni meteorologiche del prossimo inverno. Questo ci ha graziati perché è stato un inverno molto caldo, ma non è detto che il prossimo sia altrettanto, e in quel caso ci sarebbero grosse conseguenze rispetto sia ai cittadini sia alla produzione industriale in un paese e in un continente che dovesse trovarsi in una situazione in cui il gas naturale manca. Tu in queste settimane sulla rivista Energia stai pubblicando delle analisi che riguardano ciascun paese da cui l'Italia pensa di attingere gas per sostituirlo a quello russo. Si è parlato di Algeria, di Libia, di Egitto, di Qatar e di Azerbaigian. Riusciamo a fare una rassegna dei problemi che ci sono per ciascun paese? La situazione è semplice, occorre semplificarla necessariamente per questioni di tempo, ma in realtà è molto complessa per tutti e tre questi paesi. In Algeria abbiamo una grandissima abbondanza di gas naturale, è uno dei partner storici del nostro paese, dopo la Russia si attesta come il secondo importatore in Italia, ed è un paese che però negli ultimi 10 anni, se non anche di più, vive una crisi strutturale sia del settore degli idrocarburi, ma anche una crisi a livello sociale, economico e anche politica, con i moti del 2019 che hanno rovesciato una presidenza che sembrava impossibile da scalfire, e che però sono il sintomo di un'instabilità molto forte a livello sociale ed economico nel paese. Questo dettato anche da una richiesta sempre crescente di sussidi e di aiuti da parte del governo verso una popolazione molto giovane. Queste tensioni sfociano anche nell'utilizzo da parte del governo algerino del gas naturale come una fonte energetica sempre più a basso prezzo, e quindi sostanzialmente l'offerta interna di gas algerino nel paese si è tradotta in una politica di welfare da parte del governo, e questo ha ridotto nel tempo il volume di gas disponibile per l'export. Teniamo presente che più o meno le infrastrutture costruite dall'Algeria per esportare il proprio gas naturale sono utilizzate al 50% al momento, parliamo sia di gasdotti che impianti di liquefazione per il gas, e quindi parliamo di sostanzialmente un paese che fa molta fatica a mantenere già i livelli produttivi segnati nel 2021, che comunque erano in crescita rispetto al 2020. Il 2020 anno però assai critico per gli idrocarburi a livello internazionale, per il mercato, i mercati dell'energia, e il paese, nonostante questi prezzi che stiamo vedendo, ha annunciato un programma decisamente insufficiente rispetto alle richieste europee e anche italiane. C'è una disponibilità nei gasdotti e nelle riserve algerine, concretizzarla equivale però a uno sforzo molto importante che deve venire proprio dallo stesso governo algerino e da Sonatrach, la compagnia principale che nel paese si occupa dell'esportazione di gas naturale. La situazione libica è la situazione che ahimè conosciamo, è una situazione dove l'Italia ha una responsabilità politica molto forte per appunto l'instabilità che si è andata a creare nel paese, un paese che potrebbe fornirci sicuramente volumi molto più ingenti di quelli che ora esporta, e nel 2021, nonostante questi prezzi, sono andati a decrescere rispetto al 2020, segno proprio di una impossibilità strutturale nel paese per incrementare la produzione di gas naturale, ma di idrocarburi in generale, dettata appunto dall'instabilità politica, un'instabilità politica in cui fra l'altro altro i russi hanno interessi molto forti, perché hanno preso parte nella prima parte della guerra civile sostenendo il generale Haftar, e in questo momento sono parte chiamata in causa con migliaia di soldati ancora nel territorio libico, e si prevede che all'insorgere di possibili nuovi conflitti nel paese queste truppe russe possano intervenire ancora a supporto di uno o dell'altro contendente. E la situazione azera è la situazione che forse sta ancora passando sottotono, ma si parla sempre più insistentemente di un raddoppio del gasdotto TAP, un gasdotto che, come sappiamo tutti, a livello locale, a livello italiano, ha subito negli anni una fortissima campagna che osteggiava la sua costruzione. In questo momento si sta parlando di un raddoppio. Il problema però non è tanto a valle, cioè nel nostro paese, ma è alla fonte, perché la situazione non è per nulla semplice. L'Azerbaigian è un paese che sicuramente ha molto interesse ad aumentare l'export di gas naturale nei nostri confronti, ma lo potrà fare soltanto nei prossimi anni, quindi dal 2024, 2025, 2026, quando altri giacimenti verranno messi in produzione. Gas che comunque viene importato attraverso l'operazione di compagnie internazionali che lavorano nel Mar Caspio, e tra queste compagnie vi sono anche le compagnie russe. Quindi questo è un altro dato che spesso non viene sottolineato. La nostra intenzione è quella di non comprare gas russo. In ogni caso le compagnie russe sono tutti gli effetti internazionalizzati in molte delle aree dove noi potremmo alternativamente andare a comprare il nostro gas naturale. E la situazione è ulteriormente complicata dal fatto che questo gas, per arrivare dall'Azerbaigian nel nostro paese, deve attraversare diversi confini, tra cui quello georgiano, in una situazione anche questa molto instabile. Se vogliamo, la Georgia è lo specchio caucasico di quello che sta succedendo in Ucraina, dove la Russia alimenta e sostiene alcune regioni, alcune province separatiste rispetto al governo di Tbilisi, e da più parti si nota che queste tensioni stanno crescendo negli ultimi mesi e negli ultimi anni, anche prima appunto della crisi tra Ucraina e Russia. E il gasdotto, appunto, che porterebbe il gas azero, che porta tuttora il gas azero in Italia, passa proprio da questo paese, e un conflitto eventuale, un'instabilità politica militare, porterebbe ulteriormente a chiederci quale sia la sicurezza di questo gas importato. E poi c'è il grande snodo turco, perché tutto questo gas passerebbe appunto per il territorio, per l'intera penisola anatolica, e questo farebbe sì che nuovamente Ankara avrebbe una leva di potere da presentare non soltanto nei confronti dell'Italia, ma nei confronti poi dell'Europa. La Turchia punta ormai da molto tempo a diventare un hub per l'importazione di gas internazionale verso l'Europa, dal Medio Oriente, dalla Russia e anche dal Nord Africa. Noi avevamo già accennato anche alla questione del Qatar, dicendo che lì il gas viaggia attraverso delle gasiere, quindi è ancora più complicato rispetto a un gasdotto. Sì, più complicato, in realtà è anche più flessibile. Il gas che proviene dal Qatar dovrebbe essere appunto importato attraverso nave, e quindi abbiamo tre infrastrutture principali in Italia che possono importare questo gas. Il punto è che in questo momento non c'è molta disponibilità ad aumentare l'offerta nei nostri confronti, proprio perché vi è una produzione limitata. Il Qatar ha lanciato una grandissima nuova fase di esplorazione e produzione, che però darà i suoi frutti tra la fine del 2025 e l'inizio del 2026, e però è un paese che, come tutti i grandi produttori di gas naturale, a parte forse in parte gli Stati Uniti, si potrebbe dire, cercano di stabilire dei contatti con i paesi compratori. Per la maggior parte il Qatar ha guardato all'Asia sinora, con contratti di lungo periodo, quindi volumi di gas acquistati per 15, 20, 25 anni. Ed è chiaro che nel contesto della transizione energetica europea, laddove il gas naturale non viene visto di buon occhio dalla Commissione, o viene visto, diciamo, relativamente di buon occhio da parte della Commissione, si pongono qui due interrogativi principali. Uno di carattere appunto energetico, ovvero la compatibilità di questo gas che viene esportato dal Qatar verso l'Europa rispetto alle emissioni sia di gas metano che nell'atmosfera, che di altre componenti che andrebbero chiaramente ad incidere sulla fattibilità e sulla sostenibilità di questo commercio di gas naturale. Il gas naturale liquefatto è tendenzialmente emette molte più emissioni di quello esportato attraverso gasdotti, laddove questi gasdotti sono controllati e la manutenzione funziona ovviamente. E secondariamente c'è un punto di vista economico, ovvero che tendenzialmente il gas naturale liquefatto costa di più di quello esportato attraverso gasdotti, e questo fa sì che dall'altra parte, dalla nostra parte, vi siano considerazioni anche di questo tipo, ovvero a quali condizioni andremo a trovare gas alternativo, quello russo, in così tanti, in così grandi volumi e a che prezzo. Questo chiaramente ha un impatto sulla produzione industriale italiana, sul costo delle bollette energetiche per i singoli cittadini, e bisogna dirlo, queste semplificazioni che arrivano da parte del governo e di membri molto importanti del governo non aiutano la popolazione a capire la difficoltà e la precarietà della situazione e la grave insicurezza strutturale che vige in questo momento sul mercato dell'energia, come si sta vedendo in questi giorni, come ormai si vede da mesi. Grazie mille. Grazie a voi.